Buonasera a tutti, sono le 18, siamo in diretta in Piazza Puntoni e siamo ancora qui con un'altra puntata dei ragazzi del 77. Mentre ci sistemiamo con i nostri ospiti, sentiamo un pezzo. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken us any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Eccoci qui, siamo di nuovo in piazza e adesso vi presento i due ospiti di oggi. Due ospiti a sorpresa, perché non erano inseriti nella programmazione, ma mi hanno dato questa bella notizia che oggi potevano essere qui con noi. Allora, li presento, sono Ginetta e Pino. Ciao. Ciao. Funziona? Ciao. Quello vorrà? Sì, sì. Sì, ok. Allora, io vorrei lasciare un po' loro spiegare la loro storia, perché hanno una storia particolare e ricca di tante cose importanti. Siccome tu hai letto già qualcosa, sì, mi piacerebbe che tu mi facessi delle domande per adesso e poi magari poi risponderò a ruota libera andando oltre. Va bene, allora vi chiedo intanto quando vi siete conosciuti. Allora, noi ci siamo conosciuti, il nostro incontro è un po' particolare ed è ripreso anche all'interno dello spettacolo che portiamo in giro da 4 anni, che si chiama Non mi ricordo. Perché Pino e Ginetta fanno degli spettacoli teatrali. Perché Pino dal 1974, stiamo insieme da allora, siamo conosciuti una sera di giugno in Piazza Maggiore. E quelle sere tutti i compagni si ritrovavano sui gradini di San Petronio per discutere dei fatti accaduti durante il giorno. E c'era sempre qualcuno con la chitarra che suonava, cantava. E quella sera, quando arrivai in piazza, i compagni stavano cantando una canzone. Che canzone era? La sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. È bastato aprire la finestra, una spinta e Pinelli cascò. Da brividi. Sì, e io quella sera avevo con me una sportina piena di ciliegie, perché io abitavo in via Casaglia, i miei genitori erano contadini, e le avevo portate per distribuirle e mangiarle insieme ai compagni. E a quel punto Franco Giardino, che era il mio punto di riferimento con altri compagni lì in piazza, propone di andare a mangiare al cinema parrocchiale all'angolo con via Barberia. Lì c'era un cinema parrocchiale, perché c'era un film di Jodorowsky, La montagna sacra. Tutti i compagni si alzano, ce n'era uno a sedere sull'ultimo scalino, una figura snella e slanciata, una chioma di capelli all'Angela Davis, un barbone alla Fidel, due occhi da cerbiatto, mi guarda. Il massimo. Ma infatti... Pino, il massimo. Ma niente di meno, mi fa anche un sorriso, figurati. A quel punto pensavo che si sarebbe alzato, no? Per venire con noi, anche se non sapevo chi fosse. E invece sembrava incollato a quello scalino. Non ho avuto dubbi. Allora, prima gli ho detto, senti, se il tuo problema sono le 150 lire del biglietto, non ti preoccupare, facciamo una colletta e poi vieni con noi. E lui, a lui la cosa andava, ma non si muoveva da quello scalino. E io, secondo te cosa posso aver fatto? Ti sei seduta lì con lui? No. L'ho preso per i piedi e poi gli ho fatto fare con il sedere tutti gli scalini. E poi è arrivato a terra, l'ho aiutato ad alzarsi, gli ho detto io mi chiamo Ginette, lui mi ha detto io Pino. Un approccio... È cominciata così. Molto istintivo. Sì, sì. E vabbè, e questo è l'incontro e niente, quindi già tipo, ti dice molto, non so il tipo di film che andavamo a vedere, le canzoni che cantavamo, il luogo in cui ci si trovava allora. In quegli anni voi eravate studenti universitari? Allora, Pino era studente universitario, era venuto dalla Calabria, da Rossano Calabro, e io invece facevo l'ultimo anno delle Laura Bassi, facevo parte del collettivo, era un collettivo... che non si ritrova in nessun... Io avevo fatto la scuola quadri di lotta continua anni prima, nel 72, poi invece poi nel 70, all'inizio del 74 ne sono uscita e sono rimasta poi da allora un cane sciolto, e in quanto tale poi ero anche a scuola, c'era questo collettivo. E Pino invece nel 74 si faceva parte delle alleanze. Era uno dei tanti ragazzi di 20 anni che partecipava a tutte le assemblee, scioperi, manifestazioni del movimento di quegli anni, che raccoglieva sì organizzazioni, perché ce n'erano diverse, dai trotskisti, anarchici, autonomi operai, ne sono venuti poi tanti negli anni nel corso, però noi invece eravamo cani sciolti. Da quel giorno non vi siete più lasciati? No, assolutamente no. Abbiamo attraversato anche le nostre crisi, momenti in cui ci siamo messi in discussione, però abbiamo superato poi. Ma sì, perché noi sostenevamo che la prima rivoluzione va fatta all'interno della coppia, una rivoluzione culturale che bisogna fare, per cui applicare all'interno della coppia tutta una serie di, secondo noi, di regole, di principi. E quando vengono applicati, secondo noi funzionavano, ma io credo che il segreto fosse altrove, ovvero... Non credo che vi sia una ricetta per un buon rapporto di coppia, evidentemente eravamo ognuno capace di ascoltare l'altro e di stare zitto quando era necessario, di sostenere quando era necessario e fare un passo indietro quando bisognava lasciare più spazio. Penso che l'amore poi parta, sicuramente comunque i nostri ideali ci hanno molto molto aiutati, perché inizialmente credevamo che la sincerità fosse alla base di tutto, per cui ci dicevamo, anche se uno di noi si innamorava di qualcuno, più che innamorava, sai, succede, dopo un po' che stai con qualcuno, no, ti piace un altro, e quanto dolore, quanto male ci siamo fatti, ma noi ci credevamo e quindi siamo... E quindi essere sinceri, per esempio, dire quello che si ha dentro, non tenere, cercare di non tenersi a lungo nulla mai, e poi di credere sicuramente in un mondo dove questo modo di relazionarsi fosse esteso, perché allora non era così. Cioè, io vedevo fra molti compagni i rapporti erano diversi. Io mi ricordo che la coppia aperta, una storia di una sera, di due sere, di tre sere, via. Ecco, io non riuscivo ad averle neanche Pino, non ci apparteneva quel modo di amare, no? Di incontrare l'altro. Per noi tendevamo a costruire tutti i giorni, mentre invece le storie, le storie che ti facevi, dettate dall'età giovane, dalla passione, dai momenti veramente forti che vivevamo. Ma per me invece, io mi ricordo che con i compagni a volte mi vergognavo anche di farmi vedere mano nella mano, oppure dirsi ti amo, ragazzi, era una roba da baci perugina, per cui ci si vergognava a dirsi ti amo. No? Dirsi, fra noi no, ma che ci sentisse qualcun altro, perché fra noi non ci vergognavamo di nulla. Il problema era poi con gli altri, perché le dinamiche relazionali erano molto diverse da quelle che avevamo noi, sì. Quindi la vostra coppia solida vi ha anche aiutato a sostenere dei momenti un po' difficili. So ad esempio che Pino ha partecipato alle manifestazioni e gli è capitato di... Allora, Pino è stato nel 75, fa il servizio di leva a Messina, dunque lui lì invece ricopre un ruolo di avanguardia all'interno del movimento della caserma. Perché? Perché i compagni erano pochi, i compagni nei momenti in cui riuscivano ad individuarsi l'un l'altro, perché era molto pericoloso fare attività politica in caserma, anche perché le condizioni di vita, no, all'interno della caserma erano veramente terribili. E quindi Pino individua i compagni quando arriva in caserma, solo che un giorno accade un fatto molto grave, e cioè un capitano minaccia un soldato semplice puntandogli la pistola per dover finire un lavoro di ramazza, di pulizia. A quel punto Pino e altri cinque compagni organizzano un'assemblea vietatissima dal codice militare in caserma, e decidono lo sciopero d'arancio il giorno dopo, che è un'azione politica, lo sciopero d'arancio. Quindi Pino e altri cinque vengono individuati, processati e condannati, e quelli sono stati giorni terribili, perché i fantasmi era adesso sparisce, non so più nulla, dove lo portano, cosa succede, perché le caserme, cioè sai, se ne sentivano veramente tante, accadevano e hanno continuato ad accadere finché poi le caserme sono rimaste, c'è stato il servizio di leva obbligatorio. E quindi è stato un momento molto difficile, molto duro. La lontananza non è che faccia molto bene ai rapporti di coppia, quindi però abbiamo evidentemente anche quella, abbiamo superato anche quella prova. Anche attraverso le lettere che le scrivevate. Ecco, infatti noi ci scrivevamo, Pino poi era, io sono un po' più pigra, ma Pino era ed è una persona estremamente precisa e minuziosa nelle descrizioni. Quindi lui mi scriveva delle lettere estremamente dettagliate. E queste lettere, quindi del 75, che io ho tenuto, le chiamavamo le lettere dal carcere, sul nostro quaderno c'era un'etichetta, ci eravamo fatti l'etichetta quaderni dal carcere di Stato, ingenuamente un carcere. È un peccato per quelli che ci ascoltano in streaming sul sito di Elia Media oppure su il sito di Radio Kairos al 105.85, perché non possono vedere questi documenti. Però che... qualche foto e finisce su Facebook. Esatto, delle foto. Ma io ne ho tante, quindi ce le ho già in Facebook, ve le posso, potete prenderle dalla cartella del... Beh, cioè, questi forse, adesso devo pensare, non ricordo se questi... Comunque c'è molto e ve lo posso, potete fare quello che volete, insomma. E dunque stavo dicendo che queste lettere poi sono rimaste, dunque noi ce le mandavamo, sono lettere scritte su fogli con le anelle, perché noi ci ricordavamo che le lettere di solito si mettono dentro alle buste, e quando tu devi continuamente leggerle, devi tirarle fuori, metterle dentro, è un problema. Per cui noi cosa avevamo fatto? Ognuno di noi si è portato via un raccoglitore vuoto dei fogli, e poi ci spedivamo le lettere con i buchi, quindi così facevate un quadernino. Abbiamo fatto due quaderni molto grandi. Sì, sono tante le lettere, poi te le potevi sfogliare e leggere come volevi, senza dover sempre mettere dentro e fuori. Era più ordinato, diciamo, ecco. Era più comodo. Era un diario quasi così. Ah, diventava quasi un diario, sì, era diventato quasi un diario. Cosa raccontava Pino? Pino cosa raccontava allora? Mi mandava anche i fiori, perché non so se voi siete giovani, credo che anche voi vi mandiate i fiorellini. Aspetta qua, vedo dove lo Babbe, tu li mandi i fiorellini? Ecco, vedi, quanti anni hai tu? 37. Ma sei già vecchio. Pino ha 37 anni e aveva già un figlio di 8 anni, quindi... E mandava ancora i fiori. Sì, però i fiori Pino me li porta ancora che ha 58 anni. Allora dipende dalle persone, diciamo. Dipende dalle persone, vedi? Guarda, o forse magari a un certo punto della vita si prende una botta in testa e allora poi si fanno delle cose che non si facevano più. Ti voglio cercare dei disegni, aspetta. Allora, mentre Ginetta cerca... Se vuoi ti posso leggere una cosa questi però. Questi disegni, sì, ce le leggi sicuramente. Metto un secondo, il jingle di Elia Media, così contestualizziamo sempre dove ci troviamo. Elia Media. Multimedia Channel. Radio Aelia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Eccoci, siamo allora, di nuovo in diretta. Io ti posso leggere qualche lettera che ho scelto. Volentieri. E abbiamo inserito poi nello spettacolo che racconta la nostra storia, poi vi spiegherò di che cosa, sì. Che tipo di... Poi spieghiamo a chi non sa cosa sono questi spettacoli teatrali che fate. Certo. Allora, questa è Caserma Zuccarello, Messina, 25 maggio 1975. Ginetta, sono incazzatissimo, nervoso. Bisogna davvero essere dei figli di puttana per dire certe cose. Avevo sbagliato caserma, ho dovuto aspettare l'entrata. Mi ha visto un maresciallo dei carabinieri che si è incazzato e mi ha portato nel suo ufficio. Si è preso tutti i miei connotati e mi ha detto queste parole. Tu, fra un mese o due, sarai trasferito in Sardegna. Al che io gli ho chiesto il perché, che cosa avevo fatto, e lui, con quella faccia che hai e con la tua facoltà, io lo so già che tu farai politica. Tu sei uno di quelli di sinistra che rompono i coglioni. Al che mi sono incazzato anch'io e gli ho detto, come fa a fare delle affermazioni così gratuite? Dopo cena con i compagni ci siamo messi sugli scalini della camerata a cantare. Ho suonato tutte le canzoni che cantavamo insieme. Ogni tanto chiudevo gli occhi e mi veniva tanta voglia di piangere e gridare, di scoppiare. Mi è venuta in mente la nostra prima sera, sugli scalini, quella sul mare, le voci mi hanno ricordato la tua voce, la chitarra. Vado avanti o va bene così? Sì, sì. La luna convince... Ecco, questi, voglio dire, queste sono lettere d'amore di un ragazzo di 20 anni, in anni in cui credo che forse non ve ne siano state prodotte tante così di questo tipo, perché questo è quell'amore che abbiamo, che da ragazzine si sognava, no? Un po' di... Sono quelle lettere che si sognava di ricevere. Per esempio dice, la luna con vicino la stella più grande e luminosa, te la ricordi? Quell'aria fresca sul viso mi ha ricordato noi due che iniziavamo ad amarci. Ma adesso è notte, intorno a me squallore e solitudine. Sono solo nel corridoio, seduto sugli scalini. Mi sei vicina, ti scrivo e ti parlo, e mi sembra di averti accanto. Una porta alta, un muro bianco, uno stanzone, un viso, un foglio, una penna, una lacrima, una speranza. Guardi in giro tanti visi, ti sembra di essere lontano. Perché vogliono isolarci? Perché vogliono farci vivere di sogni e speranze? Tutto ciò è assurdo. Vivere non significa sognare e sperare. Vivere significa capire e lottare. Sono un compagno. La mia maglia rossa non diventerà una giacca grigia. La indosso perché è imposta, ma il mio cuore è rosso. E rosso deve restare per sempre. Noi vinciamo la paura, perché attraverso le nostre esperienze e le nostre lettere riusciamo a crescere lo stesso, e anche perché tu vivi e ti sento in me, tu lotti con me. Ti amo di un amore profondo e forte, violento e dolce, cattivo e buono. Ti vorrei stringere forte per non staccarmi più da te. Ti amerò per sempre, tuo Pino. Cosa dire? Dimmi. Una lettera romanticissima, Pino. Pino, aspetta, adesso vediamo. Ti ricordi quando me le hai scritte? È passato tanto tempo, io faccio l'interprete simultanea. E quindi di quell'anno della caserma ti ricordi qualcosa? Poco. Parla col microfono poco. Vicino. Poco. Ma ricordo vero o quelle cose che ti ho raccontato io? No. Non lo sai? No. Però ci sono le lettere che vi fanno ricordare bene. Che cosa sì, no. Adesso cosa spiego perché Pino sì. Non ricorda nulla e ha questa voce un po' strana. Pino nel 1996 è stato investito da uno stop da una persona che non si è fermata e quindi è rimasto in coma profondo per un mese con una frattura cranioencefalica e coma profondo. Dopo le prognosi immediate sono state di decesso imminente, ma Pino non è morto e man mano che restava in coma, anche dopo il risveglio, le prognosi comunque erano di una disabilità totale, con disordini totali cognitivi, comportamentali, fisici, e quindi aveva moltissime patologie di tipo neurologico, quindi non so, atassia, epilessia, afasia, bradicinesia, cioè veramente tantissime. Quindi dopo 6-7 mesi di ospedale me lo sono portato a casa. E invece di, io sono pedagogista e insegnavo, e poi con Pino dal 1983-84 avevamo fatto confluire la nostra passione politica nel teatro di impegno civile, per cui dall'84 al 96 io e Pino facevamo anche teatro, avevamo fondato una compagnia con Mary Rampazzo che si chiamava Femmere Teatro. Che tipo di spettacoli facevate? Allora, abbiamo cominciato con il teatro di strada, quindi io improvvisavo, Mary costruiva maschere bellissime, in pelle, le costruiva, erano in cuoio, però non battuto, piegato, con le mani, una tecnica molto particolare. Quindi ognuno di noi diventava un personaggio, non era carnevalesco, ma era un personaggio. Io improvvisavo poesie per strada, Pino Lazzi, un attore comico straordinario, e quindi Lazzi con il pubblico che si fermava, eravamo una scenografia che raccoglieva tre figure, l'altra era il pittore in cariola, Mary, che faceva caricature sull'impronta, sui media, così, e poi venivano donate queste cose. Da lì, i primi due anni, poi dopo abbiamo cominciato con Tossica America. Tossica America era una controcelebrazione alla scoperta dell'America, dove Pino era un Cristoforo Colombo impasticatissimo che doveva farsi business in laggiù e poi insomma... Questo è geniale. Sì, ma era molto bello. Infatti mi devo delle battute, era... Io dicevo sì, perché vado là, faccio i calci, ci stanno tutte le donne nude, ci faccio le fotografie. Imitavo un po' i tossici, no? Quindi si grattava tutto, era uno che... Poi questo personaggio si trasforma in un imprenditore, dopo si trasforma il suo personaggio in scena. E in scena comunque ci sono anche Indios, che c'è poi la voce comunque degli Indios, c'è la voce di Bartolomeo de las Casas, quindi ci sono continuamente dei richiami alla storia contemporanea. Per cui non è soltanto una controcelebrazione dell'America, ma in realtà era uno spettacolo contro ogni forma di imperialismo e una critica feroce al capitalismo. Un modo per continuare l'attivismo che avete... E poi l'altro era Chiuso, si chiamava, e Chiuso invece era sulle droghe leggere, ed era sulla stampa, sul potere non di informazione, ma sul potere dei media, di disinformazione e di criminalizzazione di tutta una serie di cose, fra cui anche le droghe leggere, e quindi è uno spettacolo ispirato da un articolo di Cronaca Nera, che poi in realtà ha dato vita a questo spettacolo e guarda caso è l'ultimo spettacolo che noi facciamo, si chiamava Chiuso. Dopo Pino all'incidente il Femmere Teatro muore, perché da quel giorno, dal 6 febbraio del 96, Pino è in coma un mese, altri 5-6 mesi li passiamo in ospedale e poi mi occupo di lui a casa, abbandono la scuola, l'insegnamento e tutto e mi occupo di lui, e dopo 11 anni di percorso di riabilitazione permanente creato per lui e insieme a lui torniamo in teatro con lo spettacolo Non mi ricordo. Uno spettacolo sulla vostra storia, però anche questo con sempre degli elementi legati alla storia, alla politica. sì, di sì. questi anni o più no, legato alla vostra storia, quindi partendo dagli anni 70? Allora, la cosa curiosa, io ho ricevuto, dopo uno spettacolo a Soldiera, che è in provincia di Modena, ho ricevuto in Facebook una lettera di una ragazza di 28 anni, della tua sei un po' più piccola, no? 27. Ecco, che secondo me dice quello che riassume in poche parole, sì, una lettera non è lunga, se posso leggerla. Certamente sì. Allora, una lettera dice: cara Ginetta, la sera dello spettacolo a Soldiera, NDR, giorno della memoria, 27 gennaio 2009, Cinema Teatro Italia. Mi sono limitata a farvi dei timidi complimenti, ma in realtà avrei voluto dire tante cose. È uno spettacolo al quale ancora penso. La riflessione più immediata che ho fatto è stata quella sul coraggio. Il coraggio di vivere pienamente la propria vita, di accettare i cambiamenti e di esserci in quei cambiamenti. Il coraggio di lottare, di raccontarsi, di dire ciò che si pensa. Ho apprezzato molto come dalla vostra esperienza siate riusciti a creare una riflessione totale sulla vita, con varie sfumature. Raccontare una storia personale, inserendola in un contesto storico che ormai è dimenticato. Descrivere un dramma e dimostrare che si può superare accettando il cambiamento e contemporaneamente dimostrare una consapevolezza storica che non subisce invece il cambiamento. Penso che non sia facile ed è indice di grande intelligenza e sensibilità. Ho 28 anni e lotto quotidianamente con una realtà che cerca di annientare il coraggio, di renderlo silenzioso e intimo. Confrontarmi con i miei coetanei non è semplice. Ho l'impressione che molti si siano arresi ad una vita che non è vissuta, ma fatta di sopravvivenze. Non riesco ad accettarlo. Ed è incoraggiante incontrare delle persone come voi che del coraggio, invece, ne hanno fatto il proprio cavallo di battaglia. E la cosa bella è che siate riusciti a fare è stato di portare tutto questo in teatro. Vi saluto con affetto e spero che questa corrispondenza possa continuare. Chiara Albanese. Questo è un bel riconoscimento per voi, vero? Secondo Immagino. Me sì, abbiamo ricevuto articoli meravigliosi anche da riviste specializzate, dal professor Basaglia, per esempio, Nino Basaglia, da diverse persone, ma questa di una ragazza qualunque è quella che mi ha emozionato effettivamente molto e veramente profondamente, sì. E io... con le interviste che sto facendo, gli incontri, gli appuntamenti che abbiamo qui con gli altri ragazzi del 77, chiedo sempre, o se non chiedo io, chiedo qualcun altro, cosa ne pensano di questi tempi, di come sta andando oggi la politica, di come l'economia sta in qualche modo controllando un po' il modo di vivere di tutti. E, no, non glielo chiedo. No, va bene, no, dimmi pure. Ma questo era per dire che comunque la nostra generazione in qualche modo ha bisogno un po' di prendere stimolo da un'altra generazione che era attiva, partecipativa, che si esprimeva. Voi con la vostra storia personale mi sembra che oltrepassate proprio questa... Vedi, allora ti dico sinceramente, no? Allora io e Pino viviamo da 15 anni in casa, io e lui, avevamo 40 anni quando è accaduto, quindi siamo usciti dalla vita, io dico quella civile. La fortuna ha voluto che l'amore, la dedizione, l'impegno ci abbiano concesso di tornare in scena e da 4 anni questo spettacolo non è la nostra storia privata, in realtà è la storia di una generazione, ma è la storia di tutti, di allora e di oggi, questa è la questione, perché per esempio lo spettacolo c'è una dimostrazione lampante che siamo sempre quelli, per esempio, cioè non è che noi raccontiamo il passato, noi siamo quelli. Non so se tu riesci a capire. E lo io ho avuto la fortuna di vedere un pezzo del video, non lo si capisce questo, purtroppo, no? Ma si capisce. Per esempio l'ultima battuta, per esempio. Allora non so, quando Pino nello spettacolo alla fine, fammi capire, allora, Pino rientra, insomma, parte, Pino ha perso la memoria realmente, non ha più, sì. Non ricorda più il passato, però ricorda perfettamente la musica. Lui suonava anche, componeva le musiche degli spettacoli. E quindi la musica, i testi, gli accordi li ricorda, moltissimi ne ricorda. Allora, cosa ha fatto? Quando torna, a un certo punto fuori campo, si sente l'Internazionale. Lui alza il pugno E io gli dico, ma tu Pino, sai cosa vuol dire quel gesto? Fa lui, certo che lo so. E quella canzone te la ricordi? Fa lui, sì. Dico, beh, tu ti ricordi l'unica cosa che tutti hanno dimenticato. Dico, adesso andiamo a casa. E lui dice, ma no, ma devo recitare, perché lui crede che sia la sera di quando ha avuto l'incidente, di 15 anni fa. Dico, Pino, sono passati 15 anni, il millennium è chiuso, adesso andiamo a casa e ti racconto cosa è successo in questi 15 anni. Dico, te li ricordi tu, i comunisti? Sì, beh, abbastanza. Dico, beh, quelli non ci sono più, i fascisti li ricordi? Beh, sì, sì, perché lui ricorda delle cose a livello generale, sì. No? Dico, beh, quelli sono al governo. Dico, poi ce n'è uno peggio di loro, Pino. E uscendo, no, dietro le quinte, continua a raccontare, quindi, e non solo lì. Tutto lo spettacolo in realtà non è passato, perché la relazione che esiste fra me e lui e si evidenzia sulla scena, così come nella vita di tutti i giorni, mostra che noi abbiamo ancora in noi quegli ideali, non li pratichiamo ancora, cioè noi su quel palco non recitiamo, noi siamo. Sì, penso sia questa la cosa più emozionante anche per le persone. E quindi questa è la nostra presenti. Forma di militare. Allora, la militanza cos'è? La fede nei propri ideali. Le lettere vengono lette in scena, di queste lettere ce ne sono 4 o 5, alcune leggo io, altre vengono lette in un momento drammatico dopo il monologo che racconta l'incidente. E sono lettere fortissime. E allora, nel momento in cui vengono proposte, noi le abbiamo lette per esempio in carcere, abbiamo fatto lo spettacolo a Volterra, nel carcere di massima sicurezza. E mentre ascoltavo, perché io poi quando queste lettere vengono lette fuori campo, io sono con l'urna delle lettere, io la chiamo urna, una scatola nera in cui io tengo queste lettere da 36 anni. E in scena usiamo anche i materiali veri, quindi le lettere vere, cioè tutti gli elementi che abbiamo sono quelli storicamente veri, anche tutto il materiale audio, video che viene proiettato è tutto materiale autentico, no? E quindi quando queste lettere, io mi sono resa conto che sembravano scritte per loro, per esempio, l'abbiamo fatto con dei ragazzi giovani, con degli anziani. E mi sembrava che fossero scritte per loro, perché lui parla di costrizione, parla di limitazione della libertà, dello sfruttamento. Per esempio dice, sì, dicono che il militare serve per imparare qualcosa, è un modo buono per sfruttarci, perché domani... Cioè lui fa tutto un discorso relativo alla condizione particolare del militare, ma in realtà si trasferisce tranquillamente dovunque, perché tutto il resto non attiene soltanto alla caserma, ma alla situazione che si stava vivendo. Allora uno dice, oggi è molto peggio di allora, su questo non ho dubbi. È anche vero che comunque non era, voglio dire, dal punto di vista, io non so, noi veniamo da famiglie povere, i miei erano contadini, suo papà lavorava in posta in Calabria, ma noi, io mi ricordo che noi non andavamo noi andavamo a sedere sui gradini dovunque, perché, ma non andavamo mai al bar, quando mai? Andavamo qualche volta con tutti gli amici all'osteria della Ribalta, dove c'erano gli ex partigiani che a noi sembravano vecchi e l'avevano neanche 50 anni, più giovani di me, che ci raccontavano che le armi non le avevano mica date, che le avevano nascoste, che, e poi dicevano a noi, aspettiamo il momento giusto, ma ce n'erano, io parlo del 77, 78, tutti gli anni 70, però le altre volte ci trovavi in piazza, sui gradini in piazza, se andavamo in giro, ci sedevamo sui gradini, infatti lo spettacolo, al centro della scena abbiamo un blocco di scalini, quindi non avevamo soldi, cioè io e Pino almeno, noi viaggiavamo in autostop perché non ne avevamo davvero, quando andavamo a Lione in autostop andavamo a trovare l'amico di un amico di un amico che ti avrebbe ospitato, poi arrivava a Lione e lui non c'era, e dopo cercavi, poi ne trovavi degli altri che non conoscevi, e poi dopo la catena, cioè, ma non è che lo facevamo, ecco, c'è chi fra noi, ecco, questo è vero, c'era chi fra noi era figlio sicuramente della c'erano diverse classi sociali rappresentate all'interno del movimento, sicuramente chi faceva l'università, c'erano molti, erano miei compagni anche di scuola, anche di università, che dopo erano sicuramente figli di gente che erano più benestanti di me, no? Però insomma per noi era molto difficile. Oggi sicuramente è tremendo, sai perché? Soprattutto perché noi credevamo che avevamo il senso dell'appartenenza ad una comunità ideale, cioè quella dei compagni, del movimento, che stava facendo le cose per cambiare questo mondo. Oggi questo non c'è più. questa illusione, se vuoi, perché era un'illusione, no, questo progetto, questo sogno. Questa è una cosa che mi hanno detto in molti venendo qui, che c'era un sogno, una speranza condivisa, qualcosa sì, di... Sì, sì. Poi, non so, tu vedevi che anche se eri un cane sciolto, sì, però tutti quanti si impegnavano, cioè voglio dire, anche se eravamo cani sciolti, poi non so, poi Lotta Continua diceva la manifestazione, poi ci si andava però poi tutti, no? Cioè, voglio dire... C'era una partecipazione diffusa. Ma sempre, sì, io ricordo veramente sempre, sempre, partecipavamo a tutte le manifestazioni. Cioè era tutto, e ce n'erano veramente tante, assemblee all'università continuamente. Sì, io nel 75 sono all'università e dopo frequento l'università e il movimento, con 77 compreso. Posso chiedere a Pino una cosa su questi spettacoli di adesso? Posso, Pino? Come sono questi spettacoli che fate adesso di teatro? Secondo te ti piacciono? Ti piace fare questi spettacoli? Che vediamo noi? Sì. Si diventa. È divertente. No, io traduco io. Aspetta. C'è una differenza tra la nostra storia e una cosa. L'altra. Quella degli altri. Altra cosa. È un'altra cosa. E non la conosci. Quindi. Quindi. Possiamo parlare. Possiamo parlare. Solo di quello che conosciamo. Sì, sì. Del tuo spettacolo, allora, volevo sapere. Ti piace fare questo spettacolo? Non mi ricordo. E certo. È un ritmo. È un ritorno. In un certo senso è un ritorno. Indietro. Indietro. Quindi significa in ogni caso. Quindi significa in ogni caso, in ogni caso, che la vita va avanti. Bisogna solo accettarla. E poi uno va di conseguenza. E poi? Uno va di conseguenza. E uno va di conseguenza, le valutazioni. Sempre si va avanti. È chiaro che vent'anni fa... È chiaro che vent'anni fa... C'era una storia. C'era una storia. Oggi ce n'è un'altra. Quindi bisogna comportarsi. Bisogna comportarsi in base al momento storico che si vive. Il teatro è un modo per vivere, per essere presenti come si vive nel momento stesso in cui si vive. Quindi brava. Ogni volta mettete in scena quello che siete. Certo. E questa passione per la musica, questa internazionale, ti è rimasta proprio nel cuore? La musica l'ho sempre avuta. Sempre avuta. Quando ero piccolo e ancora oggi riesco a ricordarmi i vecchi tempi. Allora, la musica la ricordo fino a quando ero piccolo e anche oggi ricordo i vecchi tempi, cioè ricorda la musica lui si identifica con la musica, non ha ricordi collegati nel momento, cioè lui ascoltava musica o faceva musica, ma tutto l'elaborato cognitivo riferito al momento in cui non ce l'ha, è fissa la musica. Ecco. Ricordo che una volta sentivo la radio sempre e addirittura a volte riuscivo a recitare quello che sentivo e poi con la chitarra cercavo di imparare le note. Infatti lui che gli altri facevano. Infatti lui ha costruito la sua prima chitarra a 9 anni con degli elastici che suo fratello, intenerito da questa cosa, perché era riuscito a fare, ad accordare anche qualche nota, riusciva a fare qualche accordo, e quindi quando andò a fare il militare, che era più grande di lui, gli comprò una chitarra. E da allora non ha più smesso di suonare. Aveva un gruppo in Calabria, anche a Bologna, gli Stormi. E adesso sono passato all'organo. Adesso sono passato all'organo. Perché l'organo l'ho avuto in vedetta. Perché l'organo sì, lo suonavi anche prima, sì. E allora? La chitarra era più facile suonare. Allora la chitarra era più facile, adesso col problema che ha per colpa dell'incidente, per i danni che ha avuto, non riesce più a suonare, non ha più la manualità fine necessaria per la chitarra, quindi pur ricordando gli accordi non riesce più a suonarla. Certo. Ti sei reinventato anche qui, anche in questa occasione. Sì, sì. La musica non si molla, si trova un altro modo per suonare, giusto? Certo. Bravo, proprio questo è lo spirito. Ognuno si comporta secondo il momento. Ognuno si comporta secondo il momento, cioè uno fa quello che nel momento può, lo intende, no? Può fare con i mezzi che ha. E questo è un insegnamento che non dovrebbe dimenticare mai nessuno. Ascolta, c'è Pino che sì. Abbiamo fatto riferimento al centro di riabilitazione dell'ospedale San Giorgio di Ferrara, e dove hanno curato tra l'altro anche Fellini e mi pare anche di recente, Nazzaro, quello... Ci sono diverse persone, anche De Tommaso ha avuto un problema, un ictus, sono stati curati da lui e noi abbiamo fatto riferimento per molto tempo lì. E quindi nel 97, nel Natale, abbiamo fatto un concerto e Pino ha suonato con un gruppo per i pazienti dell'ospedale. E allora io gli chiesi in quei giorni, era dal punto di vista cognitivo, era in condizioni molto molto gravi Pino allora. Io gli chiesi: Pino, ma mi puoi scrivere un discorso da fare ai pazienti, no? Perché oltre che suonare sarebbe bello che tu facessi un discorso. E lui d'amblè mi ha scritto questa cosa che mi ha lasciato allibita, ma no, non so dirti come. Cioè, quando è presente, quando il cuore fa ciò che tu non sai più cosa dire, no? E rimani... sentiamo se hai voglia di leggerlo. Sì, sì, dice così: forza, ce la faremo a fare tutto. Chi parla oggi starà zitto domani. Chi sta zitto oggi parlerà domani. Chi cammina oggi zoppicherà domani. Chi zoppica oggi camminerà domani. Domani il mondo sarà diverso da oggi. Forza, solo chi ha voglia sarà diverso domani. Forza, noi ce la faremo ad essere diversi domani. È un testo magnifico. Sì, meraviglioso, una poesia. Sì, no. Hai scritto una poesia? Ma lui mi scrive sempre delle poesie, da sempre. È una fortuna avere vicino un uomo così. Reciproca, sì. Reciproca. Anche tu gli scrivi le poesie? Certo, oh, io non sapevo che tu me... Non sapevo che me la... Se me la... Io questa l'ho scritta, ci ho messo 7 anni dopo l'incidente a capire che lo amavo ancora. Perché... Io ho sposato un uomo che era brillante, sano, meraviglioso, e mi sono ritrovata di fianco una persona completamente disabile, che non lui non camminava, non parlava, non capiva quel che gli si diceva, era completamente assente, no? Sono cose che spiazzano completamente. Ah sì, ma più delle volte le famiglie le persone si rompono, i giovani, perché lui era ancora un uomo giovane, vengono lasciati... Tornano le famiglie d'origine, se ne occupa la madre sempre, quando va bene, se no ci sono istituti in cui questi pazienti vengono ricoverati in modo permanente. E io ne ho scritto dopo 7 anni poesie d'amore per lui, infatti si chiama Il tè di lui, t'amo. Sono brevissime. Le sentiamo? È nell'assenza di sogni, è negli occhi aperti e asciutti che t'amo. Ti amo. Splendido amore mio, ti ho fasciato ferito, ferito amore mio. Ho asciugato le tue piaghe, piagato amore mio. Ti ho raccolto sulla via, amore mio, cervello versato. Ti amo, seppur violato, amor mio violato. Sono delle cose che delle tue riflessioni che alcune sono feroci, certo. Alcune sono molto cattive. Una dice: ma la poesia è cattiva a volte, esprime proprio quello che... Brava, è vero. Questa è la più feroce, questa. Icona di quello che fosti, feticcio onnipresente, t'amo. Me lo ricordo io lui? Abbiamo un ospite. Ah, fantastico, buonasera. Ah, beh, mica lo devi chiedere a me, io sono mica la sua maîtresse. Parla pure con lui. Allora va bene. Dici, Pino. Non vuoi più il microfono? Perché, Pino? Perché devo spegnere il microfono? Ah, perché vuole parlare con... Vuole conoscere lui. Allora, il dialogo avviene privatamente oppure se vogliono... Non ho ben capito. Sì, se vogliono parlare lo possono fare al microfono, se no... Volete usare il microfono? Pino dice di no, no. Lui dice di no. Ah, tu non ci tieni, va bene? Va bene, allora continuiamo a parlare noi due. Però mi interesserebbe sapere cosa si dicono, Sono molto curiosa, peggio di una puzzola. E come facciamo? Però dobbiamo tenere la diretta, dobbiamo star qua. Dobbiamo star qua. Ce lo faremo ma raccontare. Ma non porti via? Attento che Pino cade. Attenzione al gradino. Piano. Pino, non fidarti, t'attento, non allontanarti troppo. Qui dopo ci faremo raccontare questo incontro che non può essere ascoltato. Ma chissà. Ah, è un altro che ha avuto un incidente, mi sembra di capire. Però è un piacere vedere che agli Amelia ci nascono anche degli incontri, perché qui abbiamo avuto un po' la sfortuna che non c'è tanta gente che passa. Però noi confidiamo sempre nelle e loro chi sono? Ci sono quattro persone lì. Cinzia, sono i tuoi ospiti? Allora. Dici un attimo allora chi sono, perché qui la gente in streaming è curiosa. Allora sì, sono qui con quattro ospiti. Abbiamo Gabriele Tesauri, attore, regista. No. Quel signore lì non so chi sia. E poi abbiamo Indira e Maurizio, che sono due attori, e poi Maurizio, un altro Maurizio 2, pezzo per gli amici, un altro attore. Ricordo che questi ospiti parleranno con Cinzia tra più o meno un quarto d'ora, quando inizia la sua trasmissione, e resteremo ad ascoltarli. Adesso Pino ci ha lasciato un attimo per andare a parlare con un amico. Noi, io e Ginetta, restiamo qui. Se ha voglia mi legge ancora qualche... Cosa di Pino? Qualche pezzettino o allora. Qualcosa di tuo. Se c'è qualcosa che... Allora, tu cosa preferisci? Adesso ti dico, gli ospiti che sono venuti qui, io ho chiesto sempre di portare un ricordo, una testimonianza di un fatto, di qualcosa, una sensazione che secondo loro non ha avuto il giusto risalto storico. Adesso, leggilo a livello personale questa cosa che ti sto dicendo. Sì, sto pensando. E quindi se, può essere anche una poesia che... No. Oppure questa è una domanda importante a cui avrei, se tu me l'avessi fatta avrei... Perché mi piace poi pensare alle cose, no? Mi dispiace. Un fatto che è una domanda molto, molto importante. Sì, certo. Anche perché fatti oscuri ce ne sono stati tanti. E anche, questo non è un fatto particolare, ma quello che più mi ha... Ecco, questo, c'è un aspetto di cui mi interessa parlare, cioè il nostro linguaggio, no, di allora, sì, era un linguaggio estremamente violento. Infatti Pino in alcune poesie che mi manda dice: tu generale, io prenderò il tuo fucile, ti sparerò in... cioè un linguaggio molto molto violento, certo, che non coincideva ad una reale violenza fisica. Noi, io e Pino, non abbiamo mai lanciato un San Pietrino, per esempio, non abbiamo mai compiuto atti di violenza. Quindi da un lato c'era il nostro linguaggio violento, dall'altro è avvenuta in questi anni e ancora oggi una criminalizzazione spaventosa della nostra generazione. Sì. Cioè, il fatto stesso di usare quel linguaggio, no? Allora, se tu dovessi, cioè, sono peccato perché potevo scegliere alcuni testi qui che sono veramente... È veramente pesante. Però se tu me li fai avere oppure me li leggi registrati, io comunque li posso mettere in qualche modo sul sito. Dovrei... come testimonianza. Tu sì, adesso, perché qua quindi... trovarli in questo quaderno è un po' difficile. E quindi questa feroce... Allora, io credo che sulla criminalizzazione di questo movimento, di quella generazione, sì, non so se si sia detto, fatto, si conosca abbastanza. Per esempio, io, queste lettere di Pino sono arrivate finaliste al premio Pieve Santo Stefano nel 2007, ma io adesso mi sto impegnando affinché si riesca a fare un editing ed una pubblicazione. Perché? Perché sono lo specchio di quello che erano tanti ragazzi, la maggioranza, perché le avanguardie a Bologna c'erano certamente, ma la maggioranza non erano avanguardie, c'erano tanti ragazzi come noi. Questo quaderno, queste lettere, in realtà sono appunto, secondo me, lo specchio di una generazione, della parte silenziosa, perché se tu parli con le avanguardie di allora, non so, puoi parlare con Bifo, con Benecchi e con tanti altri, c'è un certo tipo di narrazione, no? Ma poi come l'hanno vissuta, io credo che per esempio questo epistolario in realtà ti racconti dal di dentro come sono stati vissuti quegli anni, pur restando questo linguaggio violento. Sì, il linguaggio in questo caso è indicativo del contesto in cui vivevate, anche se sì, voi certo vivevate in un modo diverso da quello che comunemente è passato. Adesso dire se vedi un punto nero sparavista, un carabiniere e un fascista, oppure piazzale Loreto, no, continuamente, oggi quegli slogan lì non si riuscirebbero a dire, io penso. Io mi ricordo, guarda, negli anni 80 io nel mio teatro di strada a volte improvvisavo e cantavo canzoni di lotta e dicevo a Mary, l'altra, che secondo me dove non c'erano ancora i Modena City Ram, cioè, quelle canzoni erano scomparse, e ce ne sono alcune che ancora oggi nessuno può cantare, per esempio quei Briganti Neri. C'è una canzone che dice: e quando mi portarono in tribunale chiedendo se conosco il mio pugnale, sì sì che lo conosco, ma al manico rotondo nel cuore dei fascisti lo spinsi a fondo. No, ci sono canzoni oppure molto contesti, e questa è una canzone alla resistenza. Oggi questo linguaggio violento viene bandito, e quindi anche quando si ricordano, quando si tirano fuori canzoni da allora, si cerca sempre comunque di pulire quella parte. È vero. Questa è una cosa una risposta interessante. E anche sulla manifestazione, io non ho mai, adesso invecchiando, ho sempre meno verità. Io ho sempre più domande. Ora sulla manifestazione di Roma del sabato scorso, cioè da un lato è vero, cioè io ho visto anche a Bologna i famosi, noi ci conoscevamo tutti a Bologna, le manifestazioni quando tu le fai per 10 anni e ci sei non ne perdi quasi nessuna, li riconosci tutti uno ad uno di viso, quando c'è qualcuno di nuovo, di lo riconosci, cioè almeno la testa del corteo era quella, se hai visto Donina era ecco, e mi ricordo nel marzo come sono arrivate, come c'erano delle persone che non c'entravano nulla, e che cosa facevano, mi ricordo benissimo, quindi è vero che esistono, è inutile dirci che non esistono, è anche vero che ci sono compagni incazzati che invece sono più, che invece si preparavano le loro molotov e raccoglievano sanpietrine, quindi c'è sia l'uno che l'altro, non si può, ecco, e quindi da un lato pretendere di fare le passeggiate, non credo che una manifestazione sia una passeggiata innanzitutto, è una passeggiata fino a quando tutti quanti non avranno la faccia nella terra e non avranno di che veramente, perché adesso le persone hanno ancora molto, molto, quando veramente avranno perduto tutto, allora potranno veramente manifestare e non faranno la passeggiata. Hai capito? Quindi da un lato io dico che sono convinta, io ho visto anche le foto e alcuni gruppi di persone più che quarantenni, cioè, con certe posture, con certi tipi di... non erano cose secondo me che appartengono, che attengono ai movimenti. Movimento. Sì, secondo me assolutamente no. Però credo anche che sia possibile che ci siano anche gli altri, no? E che nei momenti di grande tensione ci sia appunto... esiste il linguaggio violento, esistono anche azioni, io ho sempre sostenuto, cioè io non ci sono mai riuscita ad essere violenta, però, e quindi ho molte, molte perplessità sui fatti che accadono oggi. Quando tu parlavi a livello economico, secondo me, io adesso leggevo sviluppo sostenibile, ma secondo me il capitalismo finanziario è il grande cancro e purtroppo certo. Non riesco ad immaginare, cioè immaginare... È difficilissimo, ma è molto difficile perché, allora leggo magari un testo sulla ricostruzione locale, sulla reinvenzione della produzione, ma secondo me il problema è proprio il capitalismo finanziario, perché tu potrai avere modelli, creare modelli di sviluppo, produrre cose particolari in modo particolare, però la melma in cui ti muovi è quella, certo. Allora non so più. È un sistema ampio e complesso che è difficile. Secondo me sì, non ti so dire se quello è giusto o quell'altro è sbagliato. Cioè sei giusto, cioè non ho risposte, io non ho sicurezze, sicuramente è una situazione molto difficile per i giovani, è molto molto grave, è molto grave, quindi vedo che e che comunque sono convinto, ecco questa è una cosa che forse è una voce fuori dal coro, ma io ricordo perfettamente che quando io ero giovane andavo a scuola, l'ultimo anno delle magistrali per esempio nel collettivo eravamo 40, c'erano 400 studentesse, ma le 400 erano dei pecoroni, quindi il popolo bue in realtà c'era allora come c'è oggi, le avanguardie, i ragazzi fra virgolette che si impegnavano, non erano, ce n'erano ma non erano questa marea, ce n'erano di più probabilmente, ma secondo me è sempre stata comunque una minoranza. Fatto sta che dalla dopoguerra ad oggi, da Democrazia Cristiana a Berlusconi, lì eravamo e lì siamo rimaste. C'è una parte di mondo grigio, di giovani grigi, di giovani silenziosi, di giovani... io abito vicino a un outlet, per esempio. Allora ho accompagnato un giorno un'amica che mi diceva accompagnami, sono rimasta sconvolta. Di domenica pomeriggio, se non c'erano 4.000 persone, erano pochi. Ed erano giovani, giovani, giovani, vestiti in un certo modo, che camminavano in un certo modo. Io poi seduta li ho guardati molto bene, li ho respirati. E quindi esiste anche quella gente lì, e quella gente lì ha ancora molto da perdere. Quindi ancora presto. Vedi che in Grecia all'inizio si dicevano che erano i violenti, adesso in Grecia quando riducono gli stipendi degli statali da 1.000 euro a 500 vedrai che escono e non vanno a fare la passeggiata. Stanno uscendo, hanno occupato sì, e non fanno la passeggiatina perché, certo, facendo infatti, così con la manina, questo capito? È il problema, che la gente è abituata a manifestare il tempo della manifestazione e il giorno dopo tutti a casa. Sì, ma secondo me in una situazione attuale, secondo me la lotta a oltranza dovrebbe, cioè a sabato, a Roma bisognava rimanere seduti là, occupare, per esempio. Ah, secondo me sì. Con le tende. Evidentemente, se non accade, vuol dire che non è ancora tempo. Evidentemente i tempi non sono ancora maturi. Ma quando i tempi saranno maturi, così come le grandi fabbriche a Bologna hanno fatto scioperi per mesi, gente che rimaneva senza stipendio per mesi, altro che... no? E quindi secondo me evidentemente i tempi non sono maturi. Comunque le riflessioni da fare su quello che sta accadendo sono veramente molteplici e estremamente complesse. Certo, speriamo che i tempi maturino in fretta, perché la situazione è un po', cioè, molto precaria, è instabile. Sì, sì. Non so quanto durerà questa agonia. Perché questa è un'agonia. E anche adesso l'ultima, anche poi anche i media sono tremendi, la televisione, la stampa. Sì, vedi proprio che sì. Sai, hanno un ruolo, tu lo sai, un ruolo pedagogico, un ruolo di io la chiamo deformazione, ma è un ruolo di formazione purtroppo, capito? Per cui pian piano è veramente c'è questo abbassamento del livello proprio culturale, livello di conoscenza, di... veramente, veramente terribile. Allora, ricordo che siamo ancora in Piazza Puntoni, in diretta con Elia Media. Questa è la puntata dei ragazzi del 77. Andiamo con noi Ginetta e Pino, che momentaneamente hanno andato a parlare con un amico. Mancano 4 minuti alle 19, quindi io, prima di salutare Ginetta, vorrei farle due domande. La prima è se questo spettacolo bellissimo che sta facendo con Pino è ancora possibile vederlo, insomma. Allora, io rivolgo agli ascoltatori di Radio Fusico un invito. Cioè, se voi avete uno spazio, allora noi l'abbiamo regalato sia in carcere che l'avevo proposto anche al VAG 61. Adesso non, in primavera dovevamo farlo, poi non l'abbiamo più fatto. Quindi se ci sono situazioni particolari di lotta, di centri sociali particolari, possiamo farlo, offrirlo. E invece chi ha la possibilità di ospitarlo, insomma, perché facciamo tutto da soli, non abbiamo nessun agente, siamo cani sciolti allora come oggi, non siamo attaccati a nessun carrozzone e le nostre 60 repliche più sono state possibili grazie al passaparola che ci ha fatto arrivare anche a Volterra Teatro, un festival meraviglioso con Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza. Quindi siamo stati, abbiamo inaugurato teatri nel circuito quindi teatrale, ma col passaparola. Perché non abbiamo nessuno che ci sostenga, ci promuova. È un po' come andare in autostop. Sì, noi purtroppo siamo rimasti. Io dico purtroppo perché probabilmente siamo un po' fuori, siamo un po', secondo me, siamo un po' fuori. Lo eravamo e lo siamo rimasti. Siamo troppo liberi, forse. Non ho comportamenti che mi portano ad avere rapporti formali, convenzionali, di interesse, non sono capace. Non credo sia un difetto. Non sono formale, evidentemente non appartengo socialmente, anche non ho imparato dalla mia famiglia le modalità di relazione tali che forse potevano concedermi delle modalità di relazione, un ambiente che mi avrebbe potuto accogliere e accogliere anche il prodotto di tanto lavoro, capito? Invece siamo rimasti sempre, ci inventavamo, ci scrivevamo i nostri copioni e li mettevamo in scena e continuiamo a farlo anche oggi, senza, invece ci sono tanti enti teatrali, compagnie su compagnie, eccetera. Quindi vabbè, cominciamo. Noi accogliamo per quanto è possibile noi l'appello, okay, cerchiamo di diffondere per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Non mi ricordo lo spettacolo di Ginetta e Pino. Non solo, però sono anche in Facebook dove c'è, quindi ci sono i link, ma ci trovate in rete perché in rete ci sono, c'è sia il trovate Non mi ricordo, Ginetta, Maria Fino, Mainieri, che c'è proprio 10 minuti di spettacolo e poi c'è anche... l'intervista fatta da Rai Sat 2000 nel carcere La Fortezza durante e dopo lo spettacolo Non mi ricordo. E poi siamo anche in Facebook, che ci sono foto, articoli, esatto. C'è tanto materiale. Quindi cercateli perché ci sta ascoltando. Manca un minuto, io ho un'ultimissima richiesta per chi non ci ha ascoltato dall'inizio, ma magari si è collegato ora, se mi canti ancora 5 secondi della canzone di quando vi siete conosciuti tu e Pino. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. È bastato aprir la finestra, una spinta e Pinelli cascò. Sì, a quest'ore io ce l'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma giustizia nella libertà. Leggo l'ultima. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere. Noi quel giorno l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. Grazie Ginetta, grazie Pino per essere stati con noi. Grazie. Saluto i nostri ascoltatori e lascio la parola a Cinzia. Grazie. Grazie a voi. It's the time of the season when love runs high. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken us any time to show?